che se ne parlava, però ogni qualvolta che si parlava della vicenda Marlane tutti quanti dicevano che la doveva stare zitto, non si poteva parlare. E la dimostrazione qual è stata? Che oggi, persone di Praia, c'è quasi nessuno dietro al corteo, ma non solo le persone di Praia e di Tortora, che sono per il disastro ambientale sono a rischio, ma quanti familiari dei deceduti e degli ammalati non ci sono. Quindi lei lavorava in questa fabbrica dei veleni, lo possiamo dire. Qual era il clima che si respirava? Il clima che si respirava in azienda era il clima di stare zitto, sempre un certo richiamo, e l'hanno fatto pure a me, perché quando io mi ammalai nel 93 mi chiamarono che dovevo stare zitto, e io per 2 anni ho sempre protestato per essere spostato dalla postazione di lavoro dove io ero addetto, perché dopo operato i medici tutti mi dissero: lei si deve spostare da dov'è, perché non durerà molto. A me mi hanno tenuto sempre la stessa postazione, i sindacati mi hanno girato le spalle tutti quanti, le confederazioni, CGIL, CISL non hanno voluto sapere niente, l'azienda non voleva sapere niente. E nel 94, alla fine del 94, ho conosciuto una persona che poi lui disse che era medico dell'azienda, ma io fino a quel giorno non sapevo che esisteva nemmeno. E lui fece una domanda all'azienda per farmi trasferire, ma l'azienda niente da fare. Che nel novembre del 95, 2 anni dopo essere stato operato, fui costretto a rassegnare le dimissioni perché stavo sempre più male, che nel gennaio del 96 fui rioperato di nuovo e diventai 45 kg con il rischio che non ce l'avessi fatta più. Forse non era arrivato il mio momento, l'ho superato, perché dall'ospedale mi mandarono a casa perché non c'è più niente da fare. Io dopo una settimana sono tornato in ospedale per farmi togliere tutta l'intubazione che avevo, e così ho superato questo fatto. E io ho iniziato la lotta giudiziaria contro l'azienda per danno biologico, e ho dovuto lavorarci molto, e l'inizio del 2000 finalmente in prima udienza mi hanno dato ragione, in seconda udienza in appello mi hanno dato ragione, e adesso è in Cassazione. E se non sbaglio la Cassazione dopo tanti anni è stata fissata al 20 di dicembre la discussione di questa vertenza. Nella fabbrica sono morte molte persone, che spesso e volentieri si vedeva un giorno mancava qualcuno e dice: scusi, ma perché manca questo qua? Ah no, si è licenziato. Dopo pochi giorni si sapeva che era morto, perché l'azienda, che siamo venuti a conoscenza, dirigente all'azienda, andavano a casa di queste persone che erano ammalate e gli facevano firmare il licenziamento qualche giorno prima di morire. E i familiari di questi che sono deceduti l'hanno detto pubblicamente anche in televisione, che andavano questi signori a fargli mettere la firma di licenziamento per mandarli in prepensionamento, cosiddetto loro. Così risultavano che non erano più in forza nella fabbrica. Insomma, un sistema veramente fondato sull'omertà. Sull'omertà, perché noi, come ripeto, noi abbiamo fatto una manifestazione qui per il disastro ambientale oggi, che dopo che ne abbiamo parlato per tanti anni, sia l'ARPACAL e sia i Vigili del Fuoco hanno fatto gli scavi nel 97 e qualche anno prima un'altra volta, hanno trovato tutto, e qualche mese fa in udienza a Paola è stato confermato ufficialmente sia dall'ARPACAL e sia dei Vigili del Fuoco quello che hanno trovato sottoterra. E si dice, quello che ho sentito lì parlare, che ogni chilo di terreno ci sono 640 grammi di prodotto nocivo. Bene, ma a che punto è ora il processo contro la Marlane? Insomma, ne abbiamo sentito parlare tanto, però sappiamo anche di vari problemi, cavilli burocratici e via dicendo. A che punto siamo? Allora, l'inchiesta è durata 15 anni. Dall'85-86 che è partita l'inchiesta, è stata chiusa nel novembre 2010. La prima udienza che si è tenuta per cavilli burocratici è durata 2 anni prima di iniziare la prima udienza. Adesso si fanno 2 udienze al mese, e con due udienze al mese, che loro hanno citato 1309 testimoni, succede che fra 10 anni noi siamo ancora qui a fare udienze, non la finiremo mai. L'unica cosa è che vanno ad ascoltare eredi di persone decedute che non sanno niente, perché io già ho assistito a diversi interrogatori che, quando intervistano queste persone, vengono interrogate, loro dicono: sì, mio padre mi raccontava, mio marito mi raccontava, mia sorella mi raccontava, mio zio mi raccontava. E ma questo è per racconto, non è che ci hanno vissuto nella fabbrica. Io penso che per fare una cosa fatta bene devono ascoltare persone che hanno avuto problemi in azienda, e solo questi possono dire la verità dello stato, qual era la fabbrica interna, il tipo di lavoro che si faceva, le misure individuali di protezione che non ce n'erano, medici che non facevano le visite. Ma chi è fuori è per sentito dire, non si può andare avanti. Se andiamo così va tutto in prescrizione. L'unica cosa è che c'è il disastro ambientale, che non va in prescrizione, perché il disastro ambientale non può andare in prescrizione, ma per le altre cose si va in prescrizione. E loro questi puntano, la controparte punta su questo. Noi dobbiamo tener conto che la Marzotto è una multinazionale, ha un potere economico e politico che fa spavento, perché loro ci hanno detto più volte che i dirigenti qua c'erano, loro paura non ne hanno che di fare le cause, perché loro avevano un potere, e noi questo fatto del potere che loro ci hanno detto più volte l'abbiamo denunciato anche all'antimafia nel 97, dicendo che avevamo questi problemi in fabbrica, che ci anche minacciavano, minacciate a parole, dice: la dovete smettere, tanto non ci fate niente. Non minacciare che ci facevano qualcosa, la dovete smettere, tanto non ci riuscite mai, perché noi siamo forti, siamo potenti, possiamo fare quello che vogliamo. E questo l'abbiamo anche denunciato alle DDA di Catanzaro, però è rimasta opera morta lì. Questo era il clima che si viveva in azienda. Va bene, insomma, veramente una testimonianza molto forte, che forse sicuramente ci dà la cifra di quello che è accaduto, e speriamo che non accada mai più nulla del genere. Un'ultima domanda e poi la lascio andare. Pensa che una manifestazione del genere potrà servire a qualcosa? Noi questa manifestazione che abbiamo fatto oggi è per il disastro ambientale, che chiediamo le bonifiche di questi territori, di questo terreno, che c'è tutta questa cosa. E nello stesso momento diciamo pure che vogliamo giustizia presto per tutti questi familiari dei deceduti e per questi ammalati che aspettano giustizia. Va bene, la ringrazio moltissimo per la sua testimonianza, e vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Radio Transizione di Fase, e ora un po' di musica e poi riprenderemo con altre testimonianze dal corteo. Sembra male, non ci facciamo niente.